Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Al centro il pallone, il rischio è gol! È gol! Ancora una volta! Ancora una volta lui! È entrato! È entrato lui! Ha risegnato un'altra volta! Gli davanti a bacio a tutto! Sempre lui! È il Messia! Sì, come ha sempre detto il mister, quando entro io la gente si esalta, mi acclama, è normale che essendo romano e romanista ha un altro spirito, un altro voglia di far vedere quello che realmente riesco a fare e poi non posso che fare del mio meglio e contraccambiare sul campo. Lo meglio sarebbe un bene per tutti, più che altro avere un po' di, diciamo, rispetto per quello che ho dato a questa società, a questa squadra. Cerchiamo sempre di mettere la faccia davanti a tutti. Normale che da giocatore il tuo obiettivo è quello di vincere più cose importanti nel calcio, però io ho avuto, diciamo, la fortuna, il piacere, l'amore di giocare con un'unica maglia, di vincere meno rispetto a quanto potevo vincere, però sono contento lo stesso. Tutti convocati in viaggio, Autopromotec a Bologna, siamo qui. Siamo qui oggi per trasmettere questa puntata, potete venirci a trovare se ne avete voglia e quindi magari anche intervenire di persona, chi lo sa. Non mi muovo senza Giorgio De Luca, il mio autore, seduto di fronte a me. Roberta Frisani è qui in regia, mentre Gianmarco Ferronato, regia centrale di Milano, con Edoardo Lavezzari in redazione. Saluto tutta la squadra, Alessio Petrucci che è qui, Elena Ligios che è qui con me a Bologna. E Totti, abbiamo sentito uno stralcio di, insomma, abbiamo sentito qualcosa, una copertina. Pierluigi Pardo al telefono invece non è venuto a Bologna. Ciao Pardo. Come va? Bene, molto bene. Bellissima giornata. Pesante che bello Bologna, vengo domani a fare Bologna-Juve, che chiuderà la stagione del Bologna e quella della Juve. E poi parliamo anche di Allegri che oggi ha detto un'altra cosa, conferenza stampa, resto, ma ne discutiamo dopo con calma. Intanto c'è chi dice addio ed è Francesco Totti. Su una cosa penso possiamo essere tutti d'accordo, ascoltatori compresi, se no ditelo, 800 24 00 24. Non ci poteva essere modo peggiore di gestire l'addio al calcio di quello che, a mio parere, ma è un mio parere, è stato più forte giocatore italiano del dopoguerra. Luca Valdiseri del Corriere della Sera, inviato e penna importantissima. Ciao Luca. Che altro dobbiamo aggiungere? Hai detto già tutto. Ho detto già tutto. Chiudo qui. Quasi un po' di musica. No, vabbè, ma questa era una banalità, non poteva esserci modo peggiore. Cioè, sì, perché non è che è arrivato, cioè, il gioco delle tre scimmiette, chi non vede non sente, non parla. Dei campioni per i quali il momento di chiudere la carriera magari arriva all'improvviso, un infortunio, una folgorazione, no? Invece qua è un anno che si sapeva e non è stato fatto niente per farlo non nella maniera migliore, neanche nella maniera di mezzo, ecco. In un modo normale. Invece io continuo a pensare, Pierluigi, che avesse ragione il tuo amico Fabio Capello, puoi anche rispondere con la sua voce, però hanno aspettato l'ultimo arrivato, e cioè Monchi, che con un bel sorriso è andato alla conferenza stampa e presentazione dicendo: no, Totti l'anno prossimo non gioca più. Non mi dire che valgono i tweet, non mi dire che valgono. Vale una faccia parlante che dice una cosa molto chiara. Secondo me, tra virgolette, il problema non è il fatto che Totti l'anno prossimo non giocherà con la maglia della Roma. Il fatto che Totti l'anno prossimo non giochi con la maglia della Roma, anche se può far star male tutti gli appassionati di calcio, è una normale legge della vita. E se guardiamo il minutaggio di quest'anno, al netto insomma di qualche polemica di troppo con Spalletti, però insomma, Spalletti non è che l'ha gestita male questa squadra quest'anno, per cui ha gestito male l'ultimo anno di Totti, secondo me. Continuo sì, a pensare. Però insomma, voglio dire, quest'anno non c'è stato, ma devo dire che questo fa onore anche allo stesso capitano, all'ambiente della Roma. Non c'è mai stata la polemica che invece c'era stata l'anno scorso sull'impiego di Totti da un punto di vista dell'utilità per la squadra. Quest'anno semmai c'è stata in alcune circostanze, penso a Milan-Roma, la polemica sull'eleganza, cioè ci sono stati tutti discorsi non di efficacia ma di stile, perché dal punto di vista dell'efficacia, al di là del fatto che Spalletti secondo me comunque ha avuto una buona gestione che poteva essere ottima se avesse beccato qualche partita giusta di quelle decisive tra Lione e Porto prima ancora, però insomma non ha fatto una brutta stagione. E chi ha giocato centravanti non è andato male, parlo ovviamente di Diego, lo stesso Salah, quindi voglio dire, non è questo il tema è nella gestione, il tema è nella gestione, il tema è nello stile, il tema è nel non essere allineati, ecco, questa è la cosa che fa male, ecco, la cosa che fa male e che è stata fatta male è stata l'assoluta mancanza di un allineamento fra società e giocatori. Sì, sì, non si sono parlati, la società è rimasta sorpresa, Luca, dal tweet di Totti di ieri. È chiaro che non si parlano, non so da quanto al tema dell'impiego di Totti, ti potevi aspettare un impiego all'alta fine, giochi se serve, magari anche in momenti comunque importanti, non fai l'ultima riserva che entra in campo dopo il 90esimo, è questo il punto. Sì, poi ci sono state alcune cose anche molto sgradevoli, tipo i 90 minuti a Bucarest in una partita che non contava niente, certo. 5 sotto 0, la partita col Villarreal che anche quella non contava niente, dopo 90 minuti in cui hanno giocato tutti male e poi veniamo a sapere da Spalletti che è lì, non abbiamo toccato il pallino, cioè insomma la gestione è stata veramente molto brutta da parte di Spalletti. Pallotta è venuto a marzo a parlare per lo stadio 3 giorni a Roma, non ha trovato il tempo di... Poi c'è un contratto, per cui vale il contratto, non è da dire che a Totti sì, ho capito, fatto però vale di nascosto, no, ma, però, due parole, ma vale il contratto, no? Allora serve, ti ripeto, secondo me serviva una qualcuno della Roma e doveva essere, a mio parere, Pallotta, che facesse quello che ha fatto Monchi, no? Perché poi puoi farmi tutti i contratti e i tweet che vuoi. Non sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Una parola è sempre più importante, una stretta di mano, guardarsi negli occhi. No, però la Roma. Viva Dio, viva Dio, viviamo comunque in un mondo in cui i tweet sono 1 miliardo, le pagine Facebook sono 1 miliardo di miliardi, però conta l'ultimo arrivato che arriva e, come dice Cappello, hanno fatto la fucilazione di Totti. Poi adesso altro tema è che qui si crea il fotoromanzo, no? Il teleromanzo. Cosa farà ora Totti? 1000 sono le ipotesi aperte. Secondo te, Luca, poi comparto davanti dopo il traffico, anche perché abbiamo altri, rimarremo sul tema, abbiamo altri ospiti. Penso e spero che rimanga la Roma, che è casa sua, a fare il dirigente. Molto quindi la linea Monchi. Sì, anche perché poi Monchi è vero che è l'ultimo arrivato, ma anche quello che ha detto le cose più sagge. Chiare. Io di Monchi mi fiderei se fossi in Totti, cioè penso che sia la persona giusta per intraprendere con calma, studiando bene, ma insomma oggi ho intervistato Candelà per il Corriere della Sera e lui secondo me ha fatto un bel paragone. Zidane, che non era considerato da nessuno un genio, no? A Real Madrid ha imparato. E adesso è uno dei migliori allenatori che ci sono in giro. Totti oggi non può essere uno dei migliori dirigenti, magari fra un anno sarà un grande dirigente. L'importante è l'importante è trovare una sintonia. Per me Totti può anche fare, se ha voglia, ne ha pienamente il diritto, 1 o 2 anni a Miami o da qualche altra parte del mondo, potrebbe essere addirittura utile alla sua esperienza di dirigente nel futuro. Dico la cosa più banale del mondo, la lingua, per esempio, potrebbe essergli utile avere un'esperienza fuori che migliori la lingua e che lo fortifichi dal punto di vista proprio delle conoscenze. A patto però che ci sia un accordo con la società, cioè quello che deve succedere realmente lunedì, sarà l'ipotesi, quello che deve succedere secondo me per il bene della Roma e tutto sommato anche per il bene di Totti è che Monchi e Totti si stringano la mano con la società, tanto più che cambierà l'allenatore, quindi probabilmente le cose saranno anche più semplici e disegnino una strada. Se Totti ha voglia di giocare ha pienamente il diritto di farlo, se vuole farlo all'estero, magari lontano, per andare a giocare, fatto è che mi sembrano quanto di più distante possibile in questo momento la Roma e Totti, mi sembrano distanti come c'è la distanza che c'è, non tra Bologna e Milano ma tra la Terra e la Luna, quindi aspettiamo questi eventi. Intanto saluto Luca Valdiserri, lancio il traffico e subito dopo torniamo con un uomo che Totti lo conosce fin da bambino. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire. Siamo ad Autopromotec a Bologna, tutti convocati in viaggio. Stiamo parlando di Francesco Totti, che è l'argomento del giorno. Qualcuno si sarà stufato, peggio per lui, però insomma trattasi di Francesco Totti, a mio parere il più forte calciatore italiano del dopoguerra. E di questa vicenda poche persone conoscono Francesco Totti, sono state determinanti nella crescita di Francesco Totti, nell'ingresso a professionismo fin da quando era bambino, come Franco Zavaglia, che amico di famiglia, amico suo, procuratore per molti anni di Totti, fin da quando di anni ne aveva 13. Io lo saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie. Lascio a Pardo la prima domanda a Franco Zavaglia. Cosa vuoi chiedergli? Quando l'hai conosciuto da Pischello, come diciamo noi a Roma? A Roma da Pischello l'ho conosciuto a 13 anni. Ecco, lo sapevi che avrebbe fatto questa carriera? Ma senti, diciamo che non è che che avesse fatto una carriera così importante, magari non lo immaginavi, però che era già un ragazzo di grandi prospettive, questo senz'altro. Senti, poi, Franco, quali erano i suoi sogni da bambino? Bah, lui, diciamo, i suoi sogni, e basta dire che lui a casa dormiva dietro la testiera del letto con la fotografia con il poster di Giuseppe Giannini, quindi lui ha sempre avuto quest'amore per la Roma e per gli Isoli che in quel momento c'erano a Roma, questo è stato sempre il suo cruccio, no? Non è mai voluto andare da Roma, nonostante offerte di società importanti, Real Madrid, Milan, Juventus e via dicendo, è rimasto sempre a Roma perché voleva coronare un sogno che sullava da bambino. Sì, in parte lo ha coronato comunque vincendo due scudetti, ma c'è stato un momento che tu sappia in cui è stato davvero vicino ad andare via? Oppure no? Beh, il momento in cui è stato vicino ad andare via è stato quando c'era l'allenatore della Roma Bianchi, non Ottavio Bianchi, ma Bianchi d'Argentino. Sì, è chiaro, capito. Che non praticamente non vedeva Totti come giocatore di prospettiva, come giocatore con il talento che c'aveva, e all'epoca c'era Eriksson e Luciano Spinosi alla Sampdoria che volevano anche solo in prestito, di prenderlo anche solo in prestito per una stagione, però il presidente Sensi, prima di fare una cosa del genere, visto che all'epoca l'allenatore della Roma voleva a tutti i costi Littmanen, organizzò una partita con l'Ajax allo Stadio Olimpico, dove pretese che giocasse tutta la partita Francesco Totti. Dopo aver visto la partita quello che ha fatto Francesco Totti, non prese Littmanen, e da quel momento in poi la carriera di Francesco iniziò ad essere più luminosa, diciamo. Quindi anche il trasferimento alla Sampdoria assumò. Dimmi Pierluigi. No, no, volevo sapere, a parte la Samp, Real Madrid e Milan, che sono state altre due suggestioni in questi anni, quanto sono state vere? No, sono state vere al 100%, sia la Milan che la Real Madrid. Quindi non, però lui ha sempre detto di no, è voluto rimanere a tutti i costi a Roma, perché il suo cruccio era rimanere alla Roma. Sì, ma poi ne abbiamo parlato anche ieri, cioè alla fine Berlusconi rinunciò anche a trattarlo e ad insistere per una questione di rispetto nei confronti di Totti della Roma. All'epoca c'era Braida, direttore sportivo, venne a Roma per parlare con la famiglia, però non se ne fece nulla perché Francesco è stato removito. Certo, poi possiamo discutere all'infinito, lo faremo per sempre, no, Pierluigi, sul fatto avrebbe potuto andare, andare da un'altra parte a vincere di più, ad essere incoronato miglior giocatore del mondo, eccetera. Ne discuteremo all'infinito e sarà un tema da dibattito accademico, no? Sì, assolutamente. Io penso che fra i vari effetti collaterali di Totti e del tottismo ci sia il fatto che, secondo me, ha contribuito a migliorare l'immagine di Roma. Io vivo a Milano dal 2003, anche se faccio su e giù, e devo dire che la mia percezione è che negli ultimi anni i romani siano mediamente più simpatici. Secondo me Totti ha avuto un ruolo importante, ovviamente la Roma è piena di esponenti culturali, di artisti, certo, di attori, certo, di cantanti, certo, che hanno... Ma Totti, secondo me, è uno di quei giocatori che ha portato un certo tipo di romanità... Lui ha dato sempre un'immagine positiva sia della Roma che della romanità, no? Come si definisce. Non ci dimentichiamo che poi durante questa sua permanenza alla Roma, la Roma ha anche attraversato dei periodi difficili sotto l'aspetto economico. Addirittura Francesco all'epoca ha dato poteva anche andare altrove a guadagnare di più, certo. Ma a volte andare a guadagnare di più, ma ha dato anche un contributo affinché la Roma potesse proseguire nella gestione. Quindi diciamo che Francesco ha fatto quello che magari pochi giocatori avrebbero fatto. Assolutamente, qualcuno sarebbe scappato, invece lui è rimasto tranquillamente. Lui è rimasto. Io voglio chiederti ancora questo, sono due domande in una. Secondo te, non so se l'hai sentito, non voglio neanche saperlo, o se hai sentito qualche suo familiare, non voglio neanche saperlo. Voglio che tu mi dici se secondo te con chi è arrabbiato ora e quale sarà secondo te il suo futuro. Ma io penso che, diciamo, arrabbiato, non lo so con chi potrebbe arrabbiare, però ormai è una cosa talmente evidente che è inutile magari fare dei nomi. E per quanto riguarda il suo futuro, io penso che da lunedì inizierà un po' a riflettere e magari senz'altro penso inizierà un'altra carriera, non da giocatore ma da dirigente. Con quale compito ancora magari da definire, o nella Roma oppure magari a livello nella nazionale, però io penso che questa per Francesco sarà la sua carriera in futuro. Quindi non farà più il giocatore da nessuna parte, secondo te? Io penso di no, perché non penso che Francesco è un ragazzo molto ma molto legato alla famiglia, agli amici, agli effetti familiari. Penso che difficilmente lui si può spostare, come qualcuno dice, che va all'estero e via dicendo. Bisogna considerare che oltretutto ha dei bambini in Italia, spostare magari solo per un anno oppure per 8 mesi tutta la famiglia, magari si può creare qualche problema, ma non mi sembra che lui sia il tipo che abbandoni Roma e abbandoni tutta la cerchia di amici che lui ha. Chiarissimo, grazie Franco, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a Franco Zavaglia. Quindi abbiamo capito molto chiaramente, possiamo fidarci di queste parole, qual è la sensazione di un uomo che lo conosce bene fin da quando era bambino. Ci arriviamo per la borsa, torniamo subito dopo e allarghiamo, Pierluigi, il discorso da Totti a un mercato che sta esplodendo, come ben sai, ed esploderà fragorosamente al tiki taka delle 19. A dopo. Tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su droni, stampa 3D, robotica e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Tutti convocati on the road oggi da Autopromotech di Bologna, c'è Marco da Modena e poi un ospite, c'è Pierluigi Pardo naturalmente, 800240024, Marco da Modena è qui vicino, poteva anche venirci a trovare volendo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, io sono intervenuto solo perché ho sentito Francesco Totti, il più grande calciatore italiano del dopoguerra. Io, certo, da innamorato di Gianni Rivera, per me è un'eresia. Gianni Rivera ha vinto due coppe dei campioni, ha fatto un gol determinante in una semifinale di Coppa del Mondo, sì, ha vinto tre campionati con il Milan. Per me è il più grande giocatore italiano, è un fuoriclasse in assoluto. Poi se mi avesse parlato di Roberto Baggio, ma Totti purtroppo è stato nella rometta e non ha fatto nessuna storia nel calcio, fine. Ma un mondialino l'ha vinto, ha vinto un mondiale così en passant, no? Ma soprattutto Carlo, dimmi, premesso Pier, che chiaramente la discussione è aperta ed è accademica, no? Sì, dico, premesso che chiaramente è il regno della soggettività e che poi è completamente impossibile cercare di paragonare giocatori di epoche diverse, per cui hanno tutti ragione, come direbbe Sorrentino. Hanno tutti però ragione, detto questo, sì, il metro non può essere soltanto quello delle vittorie, perché altrimenti il grande Furino, che sappiamo, che penso sia non essere stato uno dei 10 giocatori più forti d'Italia, dovrebbe rivendicare tutto questo. Le vittorie sono legate anche alle squadre nelle quali ti trovi. Totti ha fatto una scelta che è stata una scelta sicuramente di grande amore, di grande fedeltà nei confronti della sua squadra, ha vinto sicuramente meno di quello che avrebbe dovuto vincere, ma non gliene si può fare una colpa. Ma poi, no, ma questo è chiaro. Totti, Baggio, Del Piero, Maldini che ha vinto tutto quello che vuoi, Riva, ci sta dentro chi vuoi tu. Assolutamente. A Mediaset non c'è solo il Tiki Taka News di Pierluigi Pardo, ma c'è anche Sandro Sabatini. Ciao Sandro. Quindi un po' ho capito Totti e Baggio, capito? Il dualismo Pardo-Sabatini, insomma, dai. Pardo-Sabatini, quando cominci con calciomercato? Calciomercato premio. Gigi Riba. Io non lo so, se volete che piazzo Totti, anch'io la penso come Pierluigi, anche perché lo stesso Roberto Baggio non ha vinto, ha vinto poco, però ha vinto un pallone d'oro, sai, è difficile, le classifiche no, no. nel tempo, le classifiche nel tempo sono reali, sono discussioni, sono discussioni puramente no, ma accademiche. Tempo nei ruoli, tu pensa a Buffon. Tu pensa a Buffon. Ma chiaro, no, è chiaro, ma è chiaro, ragazzi. Totti o Buffon e Del Piero, cioè sono proprio sport diversi, per cui godiamoceli tutti e ringraziamo Dio di averli visti giocare. Esatto, che poi è anche una questione di emozioni, no? Cioè, per io non sono romanista, ma per i miei gusti, per quello che mi ha regalato personalmente, Totti è stato uno di quelli che mi ha emozionato, diciamo, forse più di qualunque altro nel dopoguerra, ma poi ognuno ha i suoi, almeno per quanto riguarda i calciatori italiani. Senti Sandro, il mercato sta esplodendo, è notizia di cronaca il fatto che il City, il solito City, si sia preso Bernardo Silva dal Monaco per una bazzecola, 80 milioni di euro, tanto per far mettere le cose in chiaro sulla distanza che esiste tra gli inglesi e Real Madrid e Barcellona e tutto il resto del mondo. Che mercato ti aspetti? Si parla di uomini da sogno, da Di Maria per il nostro campionato a James Rodriguez, a Morata, arriverà qualche sogno secondo te? Secondo me sì, ti dirò che Morata mi risulta insomma che possa essere anche più di un sogno, perché i sogni di solito poi uno si sveglia e non si realizzano, no? Invece Morata sembra che sia una speranza molto concreta da parte del Milan, ha un costo non indifferente perché è praticamente il doppio di quello che l'anno scorso è stato il prezzo di riscatto del Real Madrid, cioè si passa da 30 a 60 milioni senza che praticamente Morata abbia giocato da protagonista quest'anno, però il valore del giocatore è altrettanto non indifferente e quindi il Milan farebbe un grande colpo. Per la Juventus si parla di Schick e questo sì, il rapporto al prezzo mi sembra un affare incredibile, tant'è vero che tutte le società si sono intervenute, hanno cercato di corteggiare Schick, ma sembra ci sia riuscita la Juventus solo e soprattutto direi anche all'apporto del connazionale Nedved. Per l'Inter spuntano fuori questi due aspetta, su Schick apriamo una parentesi e chiariamo il punto. Mi risulta che ci sia un contratto fino al 2021 e una clausola rescissoria di 25 milioni di euro che anche in Italia chiunque può pagare, così no? Sì, Schick costa 25 milioni di euro e in prospettiva è un prezzo veramente da raccontare come investimento della vita, ecco. Esatto, ma anche perché se ne parla anche a Napoli eccetera, alla fine sarà lui a decidere dove andare. Abbiamo in proposito una voce di Ferrero che sentiamo. Dico soltanto la verità: Juve, Inter, Napoli, Roma, Milan e poi altre straniere non ho studiato, non me le ricordo. Ma la Samp cosa fa con Schick? La Samp se lo tiene stretto, però poi se qualcuno viene, comunque gli accordi sono che chi lo prende ce lo lascia ancora un anno, perché il ragazzo ti deve ancora formare, sta bene qui, c'è Genova, c'è il mare, c'è il sole e non vedo dove voglio andare. Io vedo dove posso andare, il fatto è che Pier deciderà lui che cosa fare, no? Ad esempio potrebbe essere una grande idea per il Napoli che si metterebbe all'inizio magari in panchina c'è il mare e il sole e si metterebbe in panchina un giocatore sul punto di esplodere, no Pier? Sì, io credo che al di là dell'interesse personale Ferrero abbia ragione, nel senso che io il consiglio che darei a Schick è quello di farci un altro anno di continuità in una squadra media. Poi è ovvio che insomma è difficile, no? È difficile se ti dicono che l'anno prossimo vai a condurre Sanremo, dire no, vabbè, ci vado fra un anno. Però la vita di un calciatore è abbastanza semplice, no? Nel senso che comunque quello è un talento enorme, è un talento giovane e secondo me gli serve giocare con continuità. Ecco, il rischio potrebbe essere quello di invece di fare un anno in panchina, anche se poi magari Schick in cuor suo pensa che l'anno in panchina non lo fa neanche la Juve, perché poi il talento è veramente abbagliante e questo è insomma, poi chiaramente deciderà lui. Quindi sei della linea Ferrero? Sei della linea Ferrero? Cioè sei della linea Ferrero? Ferrero ha ragione. Ferrero, se l'accordo è 25 ma dopo un altro anno è chiaro che Ferrero se te lo dà subito vuole monetizzare ancora di più, quindi può forse alla fine pure contento di darlo subito, non lo so, dipende da quant'è questa monetizzazione. Io penso che per il ragazzo l'anno prossimo sia importante consolidarsi e giocare con continuità. Sei d'accordo Sandro? Assolutamente no, perché comunque questo è un fenomeno che abbia 20, 21, 22 anni. Tu sai che non me lo ricordo nemmeno quanti anni ha Chic, e magari così di botto me lo ricordate neanche voi, perché è chiaro che non è immaginabile il fatto che vada alla Juve e giochi subito titolare, perché comunque va a giocare nella seconda squadra d'Europa, almeno se non la prima, questo lo dirà la finale di Cardiff fra una settimana, però se sei bravo giochi anche a 20 anni dappertutto, trovi il tuo spazio, la tua dimensione. Poi è vero che se c'è comunque qualcosa di scritto per cui è una clausola, in ogni caso che comporta la permanenza alla Sampdoria per un altro anno, come dice Ferrero, la discussione non si pone, perché quello che c'è scritto va rispettato. Però sì, caro Pierluigi, quando a 20 anni ti hanno detto di fare qualcosa, non hai detto a 21 anni per la cronaca, è del 96, si dice gennaio 96. Al di là di questo, io capisco benissimo che lui, infatti ho fatto un esempio di Sanremo, che poi manca, me ne frega niente di Sanremo, però voglio dirti, è ovvio che di fronte a certe opportunità della vita è difficile dire no, soprattutto se hai 21 anni, quindi io che Chic possa avere l'impazienza di uno che è fortissimo e che ha un grande talento, io questo lo capisco. Io credo che in generale, per come lui, visto che di anni non ce n'ho più 21 ma ce n'ho 40, potrebbe avere senso consolidarsi un altro anno giocando con regolarità e diventando veramente un crack. Questo è quello che penso io, però è ovvio che se la scelta del giocatore sarà un'altra, sarà quella, e non sarà biasimabile, nel senso che il fatto che il pallino ce l'ha in mano lui, ce l'ha in mano lui, non ce l'ha in mano né la Sampdoria né nessun altro. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza per il traffico, poi andiamo su un ultimo argomento con un'altra voce di oggi e poi vi saluto. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, come ha ricordato prima Pardo, domani lui sarà qui a Bologna, dove oggi sono io, a raccontare Bologna-Juventus, cioè l'epilogo del campionato per entrambe, l'ultima uscita ufficiale della Juve prima di Cardiff. Ultima conferenza stampa del campionato per Allegri, ha detto questo. Per quanto riguarda il contratto, al momento giusto la società deciderà, mi chiamerà. Dopo alla fine io ho un contratto fino al 2018, quindi come ho ripetuto 1500 miliardi di volte, ho un contratto fino al 2018, la società ha il diritto di potermi chiamare o non chiamarmi, e dopo lì vedremo. Così Allegri, perché questo è l'altro grande discorso che tiene tutti impegnati, che fa Allegri dopo Cardiff? Pierluigi Pardo, mistero irrisolto, credo, e poi coinvolgiamo Sandro Sabatini. No, non ho molto dubbio, Sandro Sabatini che forse ha informazioni più fresche. Io penso che posso dire che credo che dipenda dalla motivazione, però insomma lui oggi non ha fatto altro che ripetere una cosa di assoluto buonsenso, e tra l'altro c'è il contratto, la prossima settimana, sempre in conferenza stampa l'ha chiarito, era la Parisiano, ma ovviamente non è che ci saranno incontri, perché la Juve ha cose più importanti da fare, è cose più importanti a cui pensare, quindi se ne parlerà dopo la Champions League. Dopo Cardiff Cardiff è in funzione dell'esito di Cardiff, io credo. Eh beh, certo, insomma, io penso che una finale di Champions League vinta o persa, cioè io non penso che Allegri sappia come starà fra 10 giorni. Certo, non solo come andrà a finire la finale, ma anche che tipo di effetto la finale avrà sulle sue motivazioni, se dovesse vincerla, se dovesse non vincerla, insomma, credo che sia abbastanza questo il nodo. Sandro. Ma sì, anche un nodo, proviamo a trasformare la situazione di Allegri in una qualsiasi azienda con un qualsiasi manager o direttore o amministratore. È chiaro che uno ottiene dei risultati e tutte le volte ha bisogno di una gratificazione, di un premio, di risultato, di un riconoscimento, perché non è tanto l'importo economico a fare la differenza. La differenza la fai se tu mi apprezzi me lo dimostri, capito? Ecco, io poi sono l'ultima persona che può dare dei consigli sia ad Allegri sia alla società Juventus. Dico solo che è abbastanza anomalo che comunque venga fatta la discussione sul proseguimento del rapporto di lavoro al termine della stagione dopo un appuntamento così importante come la finale di Cardiff. Secondo me è un discorso, il valore di Allegri, quanto Allegri sia importante per la Juventus, quanto possa fare Allegri per la Juventus andava visto prima, al tempo stesso anche quanto la Juventus sia importante per Allegri, quanto la Juventus stia facendo grande Allegri, il discorso è reciproco. Sì, è chiaramente reciproco Sandro, però magari i diretti interessati hanno già discusso del tema, come capitò tra Moratti e Mourinho, questo lo scopriremo vivendo. Intanto vi saluto, sì, ciao Sandro Sabatini. Dimmi, Piero. Il pallino ce l'ha in mano Allegri, ovviamente. Beh, questo è evidente. Così come ce l'ha in mano Mourinho nel 2010, perché comunque andrà a finire. Io credo che Allegri, insomma, abbia mercato e stia facendo un lavoro straordinario. Poi è vero anche quello che dice giustamente Sandro, cioè che dietro a un grande allenatore c'è anche ovviamente una grande squadra, una grande società, che è un po' il discorso che facevamo lo scorso per Higuain, no? Cioè, cosa reale. È un circolo virtuoso. Ciao Pierluigi, sentiamo domenica ciao, lunedì per tutti i convocati, andiamo al giro. Dumoulin ha detto, mi sì, dicono così, lo sa tutto. Me ne frego, allora, per me. Cioè non cambia niente se scendo giù dal podio, faccio secondo, terzo, anzi deve stare attento lui, perché se noi lasciamo andare via gli altri, ci sta che lo perde anche lui il podio. Quindi cioè, sono dichiarazioni che fa, che sono un po' così, fa un po' lo spavaldo secondo me. Cioè, se deve fare dichiarazioni le fa quando arriva a Milano, ha vinto, ok, è stato bravo. Insomma, stai esagerando adesso con questo atteggiamento. Allora, è forte, si vede, l'ha dimostrato oggi, perché anche sulla salita finale era lì, ha controllato molto bene. Noi abbiamo provato ad attaccarlo tutto il giorno, ma è normale che io e Quintana siamo i secondi e terzi in classifica e dobbiamo controllarlo. Però non può pretendere che noi, se parte il quinto, chiudiamo noi, se no lo portiamo in carrozza fino a Milano, gli stringiamo la mano e diciamo grazie. Pepe sul Giro d'Italia, Pier Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao. Ci sta, no? Ci sta un po' di Pepe sul Giro d'Italia. E ha ragione Nibali, cioè, che fanno? Meno male, fanno assolutamente. Le ancelle, Quintana e Nibali, non credo proprio. Carlo, non so come tu la pensi, però per quanto mi riguarda, a costi di beccarmi dei pernacchi, a me il fair play non è mai piaciuto, nello sport in generale. Ma nemmeno a me. Quindi, perché vengono pagati per vincere, hanno un obiettivo, vincere in qualunque caso. E quindi, ahimè, io se devo dire, Quintana e Nibali sono stati dei grandi polli l'altro giorno, quando in realtà sono rimasti lì un po', non ad aspettarlo perché sarebbe ingiusto, ma quando il corridore olandese è stato costretto ad andare per campi, e lì andava attaccato, non ce n'è, e non è bello, ma certo, è così. Non certo, è... Poi certo, sei il più forte, anche perché comunque in questo momento la verità vera è che lui al 90% ha vinto il Giro d'Italia, te lo dico prima ancora dell'arrivo di Piancavallo, te lo dico prima dell'ultima tappa di domani vera, perché lui ha un bonus importante perlomeno di un minuto e mezzo nella cronofinale di Monza a Milano. Quindi non è che si può fare tanto, come dici tu, ormai i paggetti, le ancelle, certo, ma se lo attaccheranno in ogni chilometro, attaccarlo ad ogni occasione possibile. Tu mi hai detto che, insomma, tu hai detto 90% oggi, ma hai anche detto ieri che il Monte Grappa è domani quello che deciderà il giro. Domani c'è più terreno di oggi, perché ad esempio sai, uno dice c'è l'arrivo in salita, Piancavallo. Intanto ti do una notizia, tanto per mettere ulteriore pepe, no? E ulteriore sapore, dare ulteriore sapore alla pietanza del giro di quest'anno, il Giro 100. È appena rientrato nel gruppetto di testa Tom Dumoulin, si era fermato a fare un bisognino corporeo, come spesso cade, e l'hanno questa volta l'hanno profondamente attaccato in discesa. L'hanno attaccato e ci ha impiegato un po' a rientrare, non è stato facile, quindi ha dovuto fare un lavoro aggiuntivo insieme a altri corridori. C'è stato un agguato di una quarantina di corridori, tra i quali c'erano Nibali e Quintana, dietro invece il grosso del gruppo con la maglia rosa. È arrivato anche ad avere un 50 secondi di distacco, poi col lavoro degli altri, perché in realtà Tom Dumoulin era isolato, non aveva più compagni di squadra, però la Orica, in modo particolare quella di Adam Yates, ha lavorato a fondo e sono rientrati. Quindi anche oggi scintille, anche oggi grande. Ma chiaro, ma grande fino all'ultimo, ma è giusto che sia così? Nessuno è lì a pettinare le bambole. Tiera Augusto Stagi. Men che meno a tre giorni della fine di Giro d'Italia. Bravissimo, bravissimo. Il distacco è considerevole. Ribadisco, però, c'è ancora tempo e spazio oggi e domani. Piero Augusto, ci sentiamo più tardi negli appuntamenti con il giornale radio, ovviamente, per dirci tutto sul Giro d'Italia. Ora ci fermiamo per il giornale radio e poi c'è Racing Team, signori, state con noi. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono tre giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Racing Team. Non è un mistero che questo sia uno dei miei angoli settimanali preferiti, il Racing Team di tutti i convocati, e oggi non c'è ambientazione forse più idonea, no? Salvo un circuito Autopromotech a Bologna, perché siamo on the road. Non mi hanno raggiunto né Roberto Ungaro né Leo Turrini, le nostre voci di Racing Team. Saluto entrambi, ciao Leo Turrini. Buongiorno, ma io non potevo essere lì perché sono bloccato sulla Piero Corbano. Non c'è, avevo alcun dubbio. C'è una coda impressionante, chiedimi perché c'è la coda sulla Piero Corbano. Aspetta, te lo chiedo subito dopo aver chiesto invece a Roberto Ungaro lumi sulle condizioni di Valentino Rossi, che come sapete ieri è caduto facendo motocross, allenandosi, motocross di cui Ungaro è specializzato, si è fatto piuttosto male e c'è grande paura che non possa essere al Mugello per una gara che rischia di essere cruciale, tra l'altro a casa sua. Roberto, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ascolta, Valentino sta bene, si è scattato un selfie con le infermiere dell'ospedale, sorridente. Sì. È apparso su Rimini Today, quindi tranquilli, nessun allarmismo. Valentino correrà al Mugello. E poi mi sei piaciuto, Carlo, perché? Perché nel collegamento del GR hai detto caduta e non incidente, mentre invece io leggo continuamente sulla stampa in giro incidente, c'è quando c'è un'altra persona. Mentre invece Valentino ha fatto una banalissima caduta, e quando si fa motocross fuori strada la caduta è quanto di più casuale, che cioè, succede, è frequentissimo, è fisiologico, è in fuori strada. Esatto, lui cosa ha fatto? Ha battuto lo sterno al manubrio, non ha dato neanche importanza a questa cosa, perché sì, una botta come tante, è andato a casa e dopodiché ha sentito un dolore invece più accentuato, e allora si è fatto vedere per scrupolo. Poi sai, si chiama Valentino Rossi, e ovviamente, però i titoli che abbiamo letto, i grossi allarmismi, niente di tutto questo. I piloti si devono allenare e il motocross è rischioso, tant'è che lui il ranch l'ha fatto apposta, perché è una pista senza salti, certo, col brecciolino, certo, si rischia molto meno, adesso va molto di moda tra i piloti, perché? Perché è meno frequente farsi del male, anche una distorsione, cioè il motocross si cade, quante volte abbiamo detto anche nel campionato massimo di Tony Cairoli, visto quanti infortunati, quindi bisogna stare attenti anche a quello. Ecco, Valentino ci sarà al Mugello, quindi nessun panico, vedremo grande spettacolo, certo magari non sarà al 100%, però lui c'è e speriamo, perché quella pista lui può dire la sua. Attenzione, e tiriamo un sospirone di sollievo, caro Roberto, ci fai tirare un sospirone di sollievo anche a Leo Turrini, che adesso si spiega perché è in coda sulla... No, intanto sono molto contento delle cose che ha detto il maestro Ungaro, perché ieri sera eravamo tutti spaventati, naturalmente, meglio così. No, io sono in coda sulla Pero Cormano perché ci sono tutti i giocatori dell'Inter che stanno andando all'aeroporto in coda, tutti in vendita. Brozovic, João Mario, Santon, Nagatomo, Palacio, sono tutti in coda, ma c'è la coda anche in senso inverso, perché ci sono i tifosi dell'Inter come me allarmatissimi, che stanno notando il rientro di Ranocchia, che rientra alla base, quindi fammi parlare della Ferrari, se no mi deprimo. Grazie, sono qui pronto. Vorrei parlare benissimo di Seb Vettel, che ha fatto nel giovedì Monegasco la barba, i guardrail di Monte Carlo, con uno stile, sembrava una lametta B elettronica, caro Genta, passava sfiorando questi spigoli. Insomma, lo sapete, amici di Carlo Genta, che la Ferrari non tocca palla a Monte Carlo da 16 anni, dal 2001, come avrebbe detto Belushi, c'è stata l'invasione delle cavallette, sono piovute rane, non è stata colpa mia, però sono 16 anni che non vinciamo. Non esce mai il rosso. Monte Carlo è una delle cose più anacronistiche e belle che esistono. A me piacciono queste cose. Quando scende Briatore dalla barca con la Gregoraci, è un momento che uno capisce il senso profondo della vita. Però al di là di tutto questo, rimane il fatto che è una specie di maledizione, un tabù. Dobbiamo tornare, ho detto prima, al 2001, però io vorrei incoraggiare i ferraristi in coda come me dietro Palacio, Nagatomo, Santon, Brozovic, tutti quelli dell'Inter che vanno all'aeroporto, spediti finalmente dai cinesi del Suning altrove, a credere nella legge dei grandi numeri. Sai perché, caro Genta? Fammi la domanda. Perché bisogna credere? Perché nel 1997 un certo Schumi vinse per la prima volta vestito di rosso, aveva già vinto con la Benetton, ma fu la prima volta da ferrarista a Monte Carlo. E anche allora erano 16 anni che la Ferrari non toccava palla. Ed ecco la legge dei grandi numeri. La ripresa di Villeneuve dell'81, stavolta 2001-2017, 16 e non più 16. Insomma, crediamo. E noi che siamo sportivi, siamo profondamente scaramantici in tutto questo, crediamo in modo profondo. Ma avete visto di Lewis Hamilton che ha fatto il giro con un turista con la Safety Car a Monte Carlo? L'avete visto? Avete notato? Preso. Tutti hanno detto, ma un turista qui là, no assolutamente, è il papà di una modella che Hamilton si scopatta. Capito, insomma, chissà se ci sono anche Iannone e Belen che Ungaro conosce benissimo, avete capito, certo. Insomma, come dicevo, un grande maestro di giornalismo, Giorgio Bocca, Roberto, mentre abbiamo un ospite graditissimo che tra poco annuncio da Monte Carlo. Roberto, esiste una pista, io dicevo prima, Monte Carlo mi affascina tutti gli appassionati di motori, perché è qualcosa di totalmente fuori dal mondo, di totalmente anacronistico, al di là della storia che si porta dietro. Nel motomondiale c'è un circuito che puoi paragonare a Monte Carlo come fascino? Guarda, faccio un parallelo, Monza, la Superbike non corre più, fino a pochi anni fa ci correva a Monza, quel fascino lì, perché innanzitutto la pista più veloce al mondo di media, ma è una pista pericolosa per le moto, e quindi c'ha quel brivido, quel fascino. Monza, al tempio della velocità, potrebbe essere paragonata. Certo, il contesto è diverso, Monte Carlo ha altre caratteristiche che la rendono famosa, però il fatto del brivido per il rischio lo potrei associare a Monza, perché è più o meno la stessa cosa. Ero preoccupato perché Leo non mi ha ancora chiesto niente di Belen, però vedo che l'ha buttata dentro, quindi aspetta, ci arriviamo tra un attimo. Aspetta, ci arriviamo tra Sull'argomento arriviamo tra un attimo, dopo che Leo Turrini avrà salutato il suo amico Ivan Capelli in diretta da Monte Carlo. Grande Ivan! Buongiorno a tutti. Ivan, come stai? Benissimo, ti saluto da un'assolata Monte Carlo. Qui si sta benissimo. Sicuro che sei lì in mutande, bravo, bravissimo. Però vorrei chiederti una cosa: c'è il rischio, caro Capelli, che domenica il mio idolo personale Kimi Raikkonen finisca in mare come Ciccio Ascari nel 1955? Ecco, dovresti no, rispondere direi proprio a questo di interrogativo. No. Direi proprio di no, perché anzi la Ferrari invece ha il rischio, anzi ha la possibilità vera di arrivare a vincere questo Gran Premio, perché le macchine stanno volando, sia quella di Vettel sia quella di Raikkonen, tutte e due sono andate fortissimo, specialmente Kimi quando ha fatto le prove con le gomme super soft per quanto riguarda il ritmo gara è andato veramente forte, un Kimi diciamo così ritrovato qua a Monte Carlo. Contento Turrini, ma non l'avevamo mai perso. Io non voglio polemizzare con Ivan, che per me è come un fratello, ma chi c'è all'età di Raikkonen che va ancora così forte con un compagno di squadra come Vettel? Cioè, ragazzi, rendiamoci conto che Vettel sta guidando, credo, in questa fase della stagione come forse mai nella sua carriera. Guarda che ieri, sì, Ivan, dillo tu, ha fatto un giro impressionante Vettel, No, ieri ne ha fatti tre di giri, perché ha fatto 1.12.7 al primo tentativo, poi ha fatto 1.12.9 che comunque gli sarebbe valsa la prestazione migliore in assoluto, e poi si è ripetuto ancora facendo 1.12.720, quindi si è migliorato di qualche millesimo, però ha dimostrato di essere in perfetta simbiosi con la macchina, vero? Raikkonen, come dicevi, non è mai stato perso, diciamo così. Diciamo che è un Raikkonen che qui deve far vedere, come tutti si aspettano, che possa fare da scudiero a Sebastian Vettel. In qualche occasione sicuramente ce l'avremmo aspettato più competitivo anche quest'anno, forse. Ma Ivan, ma togli una curiosità, tu sei del partito di Turrini, Raikkonen a tutti i costi per l'anno prossimo oppure no? Ma io sono per il partito che i piloti ovviamente raggiungono una loro maturità. Raikkonen va fortissimo, però negli ultimi anni possiamo dire che una volta non ha supportato bene, secondo me, la squadra per raggiungere gli obiettivi che vuole la Ferrari, cioè il campionato del mondo costruttori. Poi se guardiamo gli altri che hanno saputo osare e prendere dei piloti giovani, mi riferisco ovviamente a Verstappen piuttosto che ad altre squadre, la Ferrari su questo ormai negli ultimi anni non è mai brillata per questa cosa, e forse dovrebbe una volta osare questa cosa. Mi rendo conto che per i piloti giovani arrivare in Ferrari e trovarsi tutta la Ferrari sulle spalle non è facile. Io l'ho provato nel 92 da pilota italiano e so cosa vuol dire avere la pressione dei media e di tutti quelli che vogliono che tu debba per forza vincere a tutti i costi. Però ormai la Formula 1 è fatta anche da ragazzi multimediali che arrivano da esperienze di vita diverse e che guidano queste macchine con 40 bottoni sul volante come se fossero delle PlayStation. Certo. Perché sono cresciuti con le PlayStation, mica come noi che siamo cresciuti col biliardino. D'altra parte voi mi insegnate come da un punto di vista tecnico non ci sia nulla di meno probante per quanto riguarda la condizione delle macchine della pista di Monte Carlo. Ma quindi Leo Turrini, abbiamo scoperto che Capelli non è esattamente del tuo partito. Scordati la tessera, è un membro onorario del PAR, il partito anti-Raikkonen. Ma io voglio dire una cosa: allora, l'anno scorso nel campionato del mondo Raikkonen ha fatto 26 punti in meno di Vettel, cioè ha fatto gli stessi punti, è stato 13 volte più veloce in qualifica su 21, quindi dire che non è stato all'altezza del compagno di squadra, insomma, è francamente un po' difficile da sostenere. Ma io però lo ammetto, sono sfacciatamente di parte. Raikkonen ha un figlio maschio che si chiama Robin, è appena nata la bambina, l'ha chiamata Batgirl. Allora scusate, uno che ha questo gusto per l'uomo pipistrello, secondo me merita tutta la nostra simpatia, no? Stiamo parlando di una sorta di eroe dei fumetti, e con chi dovremmo sostituirlo? Con il Chico Perez, non ho capito, con Hülkenberg, con questa gente che a me trasmette una tristezza. So che Ivan non è d'accordo, ma insomma conta poi anche, avete visto quel bambino, il bambino di Barcellona che è diventato una celebrità al Gran Premio, no? Certo. per chi piangeva? Ma scusate, ma fatemi una domanda, non ne usciamo più. Io vorrei. Ma piangeva per Hulkenberg, piangeva per Perez, piangeva per Ricciardo. Ma allora. Ma di cosa stiamo parlando? Io vorrei per chiudere una domanda di Roberto Ungaro per Capelli, se ne hai una, Robin. Ciao Ivan, mi sei piaciuto come ti sei espresso, parere contrario a Leo, ma molto molto in politichese, quindi bravo, mi sei piaciuto questa cosa. E io, allora, domanda per Ivan, non entro nel vostro argomento perché non posso essere alla vostra altezza, ma io ti faccio la domanda che sento in ogni bar: Valentino ce la può fare oppure no? Sentiamo un pilota d'auto cosa dice. Ma Valentino ce la potrebbe sicuramente fare, perché ormai ha fatto tantissimi chilometri sulle quattro ruote, sia macchine da rally sia Formula 1, però gli mancherebbe l'ultimo mezzo secondo, quello più importante, perché ci sono degli automatismi che ovviamente crescono con te da quando sei ragazzino, quando sei in go-kart, te li porti in Formula 1, tanto quanto per un pilota di moto, dalle mini moto incominci e poi dopo arrivi a fare delle cose che sono da extraterrestre, ma perché ormai ce li hai dentro nel DNA, ce li hai nel sangue. Allora, questo è un po' il percorso. Ivan, e quindi il rally di Monza è una gimcana o è un rally vero? Dai che mi aiuti a rispondere a tutti quelli che me lo chiedono. Non è una gincana, è comunque una gara vera, e Valentino tutte le volte si mette a confronto con piloti veri. Sono venuti nel corso degli anni Kubica, Ogier, Dindo Capello, anch'io nel 97 l'ho visto alle prime armi quando incominciava appunto ad affrontare questa esperienza. E alla fine si ritrova una volta di più lui contro tutti, e non è mai sempre facile affrontare anche da un punto di vista emotivo questa situazione, anche perché, visto che il Rally di Monza dà l'opportunità al pubblico di avvicinarsi veramente ai piloti, e lui è quello più ricercato, alla fine, al di là di guidare e di divertirsi, ma proprio Valentino diventa anche un lavoro quasi, arrivare lì a Monza e dar soddisfazione a tutti, come sempre gli accade in tutte le piste, perché ormai è diventato un'icona del mondiale di motociclismo, del mondo dello sport alla fine. Allora, un'ultima cosa per Ivan Capelli, introdotta da questa voce di Alonso, che invece a Monte Carlo non ci va. Poi abbiamo tempo di parlare di Iannone, di Compagna, se andranno lì o no. Alonso. Quando abbiamo annunciato questa sfida sapevamo della difficoltà. I primi giorni ancora un po' scomodo in macchina, perché è molto diversa. Però alla fine abbiamo visto che eravamo abbastanza competitivi, e penso che questa è stata una bella sorpresa. Turrini, è un Alonso felice, si capisce dalla voce. Ma guarda, io penso che sia una grande, grande, grande scommessa. Credo anche, ne parlavo con Stefano Domenicali l'altro giorno, che se Fernando realizzasse la grande impresa di vincere da 500 miglia, sarebbe paradossalmente anche uno spot per la Formula 1. Perché vorrebbe dire che i piloti di Formula 1 in assoluto hanno qualcosa in più rispetto a chi fa lo stesso mestiere in una dimensione diversa. Beh, io qualcuno ha anche dimostrato come Montoya, no? Non mi sbaglio. No, beh, ma sai, Montoya venne in Formula 1, aveva già vinto a Indy, poi c'è tornato. Diciamo che Alonso non ha nessuna esperienza in quel tipo di competizione. Il fatto che sia lì, parte dalla seconda fila con il quinto tempo, insomma, è la conferma di quello che poi noi abbiamo sempre saputo, che ha fatto una scelta sbagliata al di là del lato economico, affidandosi a McLaren Honda, ma rimane un grandissimo manico. Io credo che tutti i veri appassionati di velocità, di corse, di due, quattro ruote, domenica tiferanno per lui. Sarebbe una gran cosa se ce la facesse. Che ne pensi, Ivan? Io penso che Fernando ha fatto e sta facendo una cosa sicuramente difficilissima, lasciare una Formula 1 per cimentarsi in Formula Indy, ma ha colto nel segno in quello che è necessario per il rilancio della Formula 1, di tutti gli sport, anche del moto mondiale, vale a dire che bisogna ritrovare la centralità dell'interesse sull'uomo. Fernando si è spostato dalla Formula 1, è arrivato in Indy, e non stiamo parlando del suo motore, del suo telaio, di quanti gradi di ala avesse e di che gomme, ma stiamo parlando dell'uomo, dell'uomo che ha accettato una sfida e che si mette, una sfida che sappiamo che è difficilissima, ma soprattutto pericolosissima, perché a Indy non si può sbagliare. Quando sei in gruppo, in 33 macchine, e di riprendere una scia a 350 all'ora, se non a 370 all'ora, e non l'hai mai fatto, beh, qualche problema e qualche domanda te la poni. Quindi è lì che l'attenzione si va a pungere, si va a mettere, cioè sull'uomo, e questa è la cosa più importante. Bravissimo, no? Bravissimo. Grazie Ivan, grazie. Mi è piaciuto molto questo discorso di Ivan Capelli, e credo sia piaciuto anche a Leo Turrini e a Roberto Ungaro, che vorrei ora si accapigliassero sulla caduta di Rossi di domenica scorsa. Ma su questo è meglio che parli Ungaro, perché io sono un esperto. Io sono esperto solo sulle cadute di Iannone causate da Belen. Sulla caduta di Valentino lascio campo libero a Ungaro, anche no, perché non fare il coniglietto. Io ho avvertito con grande dolore il fatto che anche tu sei contro Raikkonen, e questo veramente è un peso gravosissimo. Tu Ungaro sei contro Raikkonen, Roberto? Questo è veramente un grande dolore. Ti voglio bene lo stesso, Carlo. No, Roby, non sei del partito di Turrini, quindi cambieresti più di Ferrari. Allora, io a me è piaciuto Ivan, come ha espresso un parere contrario, ma con una forma, una eleganza, cioè ci ha girato attorno, e quindi mi è piaciuto Ivan in questo paese, una formula elegante. Il bambino che piangeva, Leo, piangeva per la rossa, non penso per chi. No, il bambino è stato intervistato e tutto. Guardate che Raikkonen può piacere o non piacere in Italia, ma da tutti i sondaggi è il pilota di Formula 1 più popolare nel mondo. Poi può anche non piacere in Italia, io per l'amor di Dio mi prendo atto, però ci sono due cose che mi dispiacciono in questo momento: che sia finito il tempo e che dobbiamo aspettare una settimana per risentirci. Anche a me, perché c'è in coda dietro di me Murillo, perché l'Inter ha messo in vendita anche Murillo, qui c'è da Piero Cormano in coda anche lui dietro Brozovic, Santon, bisogna trovarne 11 che giocano però l'anno prossimo, caro Turrini. Ci penserà Zang, lasciate lavorare Zang, amici cari. Ciao ragazzi, un abbraccio, buon weekend. Io ringrazio Roberto Ungaro, Leo Turrini, ovviamente Racing Team di tutti i convocati torna venerdì prossimo. Ovviamente parleremo di Formula 1 anche nel weekend con Giovanni Capuano dalle 17 alle 19. Tutti convocati weekend. Grazie a Giorgio De Luca, nostro autore qui con me, di fronte a me, a Roberta Frisani in redazione qui a Bologna, a Alessio Petrucci qui a Bologna, Elena Nigius qui a Bologna, e a Milano a Gianmarco Ferronato e Edoardo Lavezzari. Ciao ragazzi. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.